La versione di Oscar Giannino. Eccoci qua in diretta alle 16.30, 57 secondi qui dai studi di Milano, la versione di Oscar. Oscar Giannino vi ringrazia, vi saluta come sempre per l'ascolto. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. E andiamo all'argomento della puntata per consentirvi di intervenire. Ieri lo so, molti avete telefonato, erano veramente tantissime telefonate su questa cosa delle poste e... Però io, ohimè, e mi scuso con tutti, mi sono preso la responsabilità di continuare a far parlare il Massara, il collega del Fatto, a cui dobbiamo le sue inchieste per 2 anni su questa truffa indigeribile rispetto alla quale il governo resta muto, degli indicatori di qualità e dei tempi di consegna delle poste. È una roba che vale 250 milioni di euro ogni anno che escono dalle nostre tasche e che il governo gira come sussidio pubblico a posto. Perdonatemi per ieri, oggi prometto che non lo farò più. Il tema è... trae come spunto un articolo pubblicato oggi sul Messaggero ed è relativo, dopo tante settimane passate a commentare i furbetti del cartellino di Sanremo o quelli dei municipi di Roma, le misure per velocizzare il licenziamento del decreto attuativo della riforma Madia per i dipendenti pubblici che appunto fanno i furbi e con i badge risultano presenti al lavoro mentre invece poi se ne vanno. Estendiamo questo discorso ai signori parlamentari della Repubblica, perché l'articolo del Messaggero di oggi è relativo proprio a una cosa del tutto analoga. Naturalmente i senatori non sono dipendenti pubblici, sono rappresentanti del popolo eletti in una delle due camere del Parlamento, però anche lì, come vedrete, il timbrare in assenza e incassare un fior di diaria non è proprio un'eccezione, è una prassi che forse spiega, insieme a tante altre cose, ma che forse spiega perché mercoledì scorso l'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, si sia lanciato in una tirata, in un'accusa al Parlamento, perché con un inusuale tono di qualche registro superiore a quello a cui ci ha abituato, al suo tono istituzionale, Giorgio Napolitano ha detto: si può fare di più, cari signori parlamentari, cioè lavorare 30-40 ore a settimana non basta. In realtà dietro non c'è solo il numero di ore di lavoro o il numero di leggi approvate, anche perché poi, parliamoci chiaro, non è il numero di leggi approvate quello che misura l'efficienza di un Parlamento, perché a furia di leggi noi moriamo. Ma detto questo, il problema è relativo appunto a come si incassano le indennità e soprattutto come si risulta presenti anche quando non si è presenti. Allora, siccome i dipendenti pubblici, cari ascoltatori, noi li possiamo licenziare, vedremo se davvero avverrà. Però cosa si fa con i parlamentari della Repubblica, visto che, ve lo ricordo ancora una volta, vige qui il regime dell'autodichia, per cui le Camere, solo le Camere, possono occuparsi delle norme organizzative, delle retribuzioni, dei vitalizi, di come si controllano i lavori all'interno, nessun altro, loro stessi su se stessi. E allora qui si pone un problema, cari ascoltatori, perché noi come contribuenti e cittadini non possiamo altro che rimetterci a quello che i signori parlamentari decidono su loro stessi, e come è ovvio il conflitto di interesse è così palese che non c'è niente da dire. Però è meglio parlarne, così almeno ci arrabbiamo e gli facciamo arrivare un po' dei sentimenti che esprimono i loro elettori in proposito. Anche perché questa sola indennità collegata a questa furbata del tesserino al mese nella tasca dei senatori vale 3.500 euro. Solo questa, no? Rispetto a tutto il resto dell'indennità e delle indennità che si sommano poi. Solo questa vale 3.500 euro, cioè quanto al mese milioni di italiani se lo sognano col binocolo di vedere come reddito, spaccandosi la schiena. Eppure resta da capire come si fa a risultare presenti e votanti per intascare questa diaria, anche se non si è presenti e votanti. Allora, su questo e su tutto il contesto in cui questa vicenda avviene, appunto, ha scritto stamattina Claudio Marincola del Messaggero, che ringrazio per essere con noi. Grazie a voi, buonasera. Come funziona questa storia del presente e non presente al Senato della Repubblica? Ma funziona che ogni senatore ha 2 badge, un badge è a sua disposizione, l'altro badge invece viene l'altro tesserino elettronico rimane invece agli uffici del Senato, perché in caso, diciamo, di dimenticanza, eccetera, per qualsiasi cosa, lui, indicando il suo numero di riferimento, ottiene questo tesserino. Dopodiché, a cosa serve questo tesserino? Questo tesserino serve per la votazione elettronica, si inserisce in una specie di palmare che è sullo scranno, si inserisce dentro, dopodiché tramite questo si vota, si controlla e quindi si può votare sì. Questo riguarda i lavori d'aula? Questo riguarda i lavori d'aula e riguarda soltanto il Senato, stiamo parlando soltanto del Senato. Sì. Quindi si può votare sì, si può votare no, ci si può astenere ovviamente. Però c'è un problema, e cioè vale dire che l'astensione al Senato equivale a un voto contro. Per cui in una passata legislatura, quindi stiamo passando del passato, il problema fu posto al presidente, allora il presidente era Pera. Che cosa diceva? Insomma, se ci sono dei presenti che decidono di non astenersi, ma che sono presenti, perché anche l'astensione ovviamente è un dato politico, certo, d'accordo, dal momento in cui vale come voto contrario, ecco. Certo. Allora a quel punto fu concessa la possibilità di essere presenti ma non votanti, ecco. Ora diciamo in punta, diciamo, ci starebbe, no? Cioè, voglio dire, è una, anche quella è un'espressione, se vogliamo, politica, no? Cioè essere presenti, ma essere... però nessuno avrebbe mai immaginato che questo avrebbe innescato, o comunque in ogni caso era, insomma, voglio dire, ci voleva bisogna essere un po' diabolici, no? Bisogna pensare male, che come ricordava il vecchio Giulio Andreotti, però insomma si sbaglia ma mica tanto, ecco. Allora, che cosa è successo? È successo che invece, e questo è ovviamente è quello che noi abbiamo raccontato oggi, è successo che a un certo punto si è visto evidentemente che il rapporto tra voti espressi in aula, considerando anche le astensioni eccetera, e presenze, insomma, c'era qualcosa che non tornava, anche perché ecco, dobbiamo dare un particolare che è importante, cioè quando è che si ha diritto alla diaria? Si ha diritto alla diaria quando si è partecipato nell'arco di una sola giornata almeno al 30% delle votazioni, delle votazioni, ecco, questo è il problema. Ma invece che cosa succede? Che se si è presenti, l'amministrazione contabilizza comunque quella presenza come rilevante ai fini dell'ottenimento della diaria, quindi non è un fatto da poco. Per cui da allora, eccolo lì che a un certo punto qualcuno ha notato che questi tesserini lasciati lì, un po' dimenticati, un po', diciamo, strategicamente posizionati sin dalla mattina, restavano anche quando il senatore di riferimento, il legittimo, diciamo così, titolare e proprietario non c'era. Ecco, e questo ha innescato un po' la curiosità. Quindi a tutti gli effetti, pur senza volere paragonare Dio Scampi e Liberi dal vilipendio delle istituzioni, gli eminentissimi senatori della Repubblica ai dipendenti pubblici, ma in realtà è un'artificiosa attestazione di presenza sul lavoro, esattamente come coloro che strisciano il badge e poi escono, cioè è tecnicamente uguale, tale e quale. Guarda, se posso permettermi, Oscar, secondo me è anche peggio. Infatti. Cioè, nel senso che qui stiamo parlando dei senatori della Repubblica, non è che stiamo parlando di un posto qualsiasi, cioè sono quelli che, insomma, cioè, hanno espresso poi la legge Brunetta, che hanno espresso, sono quelli che hanno stabilito, che hanno dettato le regole. Quelli che dicono licenziamoli in 48 ore i dipendenti pubblici, esatto. Cioè, diciamo che, insomma, è un comportamento che, insomma, non direi soltanto non esemplare, qualcosa di più, insomma, direi insomma, veramente noi stentavamo a crederci. Poi quando abbiamo parlato pure con i commessi, ci hanno raccontato, ovviamente, insomma, con tutte le dovute attenzioni, perché non è che si possono esporre più di tanto, quindi questo bisogna capirlo. Ci hanno raccontato, ma guardate che noi la sera raccogliamo tutti questi tesserini, perché che succede? Che se questi tesserini vengono dimenticati, cioè non succede proprio niente, cioè il giorno dopo il senatore, che nel frattempo è risultato presente, no, se lo fa ridare dall'ufficio e viene abilitato a votare, esattamente come se niente fosse accaduto, perché questo è il regolamento. Quindi ora diciamo, ovviamente adesso non possiamo, non è che tutti adesso 315. No, per carità. Cioè, assolutamente no, cioè, non sto dicendo questo, non mi è stato raccontato questo, eccetera. Però evidentemente un fenomeno, sia pure contenuto, c'è qua, i furbetti ci stanno. Ora, ecco, ma questo fenomeno abbiamo ricordato, hai ricordato benissimo che questa qualifica di presenti non votanti nasce sotto tutt'altra giustificazione, cioè in realtà per legittimare un atteggiamento politico che non configuri nessuna delle tre scelte, cioè voto contro, voto a favore o mi astengo, che equivale al voto contro. Però siccome stiamo parlando di anni alle nostre spalle, nel frattempo, come meccanismo di controllo interno autoassunto per appunto autodichia dal Senato per tentare di verificare, non voglio dire controllare, ma io direi controllare, l'effettiva presenza di chi lascia al suo scranno il tesserino, non c'è, non è mai stato disposto, non è mai stato immaginato? No, ci sono i segretari d'aula, ecco, no, che sono accanto, sono seduti accanto all'ufficio di presidenza, che a cui è demandato questo compito, ma questo compito però deve essere espressamente richiesto, nel senso che voi avete presente quelle sedute concitate in cui qualcuno si alza, presidente faccia togliere le schede, presidente guardi, e magari denuncia il pianista del vicino di banco, cose di questo genere. In quel caso, in queste situazioni così concitate eccetera, il presidente, il segretario, controlli che ecco, tutti, quindi solo su esplicita richiesta, solo faccia togliere faccia togliere eccetera. Allora, che cosa è successo? Oltretutto, insomma, noi riferiamo anche del fatto che, insomma, non è una cosa che abbiamo scoperto solo noi, è una cosa che, diciamo, che già il presidente del Senato Grasso aveva in qualche modo fiutato e quindi aveva ordinato, diciamo, una sorta di verifica interna, insomma, al Collegio dei Questori, per cui, diciamo, c'è fondamento, insomma. Per inciso, aspetta, ti interrompo solo per dire che io naturalmente stamattina noi abbiamo richiesto al Collegio dei Questori del Senato di intervenire con la loro voce, la risposta è stata no grazie, poi ci siamo rivolti anche ai vicepresidenti del Senato e la risposta è stata no grazie, chiuso l'inciso. Allora, diciamo che per noi è stato un po' più semplice perché non li mandavamo in onda. Ecco, mi rendo conto, ecco, però. Quindi, a volte, diciamo così, mandarli in onda è più efficace, cioè, però ecco, c'ha i suoi svantaggi. Ecco, quindi, insomma, questo voglio dire. Quindi, ma non si sa però questa verifica richiesta ai questori dal Presidente del Senato Pietro Grasso, che cosa si è chiusa, a quali indicazioni è arrivata? Diciamo che lì vanno incrociati parecchi dati e non è una cosa semplice. Sì. Io non mi aspetto che arrivino denunce, cose di questo genere, eccetera. Mi aspetto che però ci sia una stretta, no? E che quindi da adesso in poi non ci sarà più un tesserino lasciato lì, insomma, abbandonato. C'è se sono assumibili delle sanzioni, perché altrimenti i 3.503 euro con decurtazione di ogni 206. Di 206 euro per ogni giorno in cui non si partecipa, come ricordavi tu, ad almeno un terzo delle votazioni di quel giorno, altrimenti sta di aria continuano a incassarla e punto. Sì, tra l'altro noi, diciamo così, raccontando sta cosa, ecco, io, la mia sorpresa è stata quella di io mi ricordavo che era così, però ogni volta mi sorprendo di nuovo, forse che praticamente hanno diritto alla diaria anche i senatori e i parlamentari residenti a Roma. Ora io vorrei sapere in quale comparto della pubblica amministrazione, ma anche, diciamo così, enti di rilevanza costituzionale o privati che riconoscono la diaria a chi è residente, e quindi non dovrebbe... dove non ci sono spese di viaggio, dove non ci sono spese d'affitto. Allora io devo dire, ecco, ma io dico, anche non volendo, diciamo, iscriversi al partito dell'antipolitica, però voglio dire, ma perché deve essere una zona franca? Ecco. Il Parlamento della Repubblica, perché devono essere possibili cose che altrove non sono assolutamente pensabili nel modo più assoluto? Questo io personalmente, questa è la domanda che lasciamo perdere, diciamo, questi, vabbè, i comportamenti di questo genere, malcostume, e non li vogliamo lasciare perdere, ma è possibile concepire un regolamento di questo genere? Allora, su questa tua domanda legittima e non retorica, se mi permetti, in cui prima ha parlato il giornalista, questa era la conclusione del cittadino, Claudio Marinco, e io sottoscrivo entrambe, e ringrazio tutti i colleghi, ieri in un caso, oggi in un altro. Come vedete, i giornalisti che fanno il loro mestiere e tirano fuori notizie sconde ci sono ancora, grazie al cielo, forse non saranno la maggioranza, ma aspetta a me dirlo, però ci sono e secondo me vanno ringraziate. Però l'ultima domanda, cioè quella, ma è possibile che sia un Portofranco? Questo è una domanda del cittadino al quale io mi associo, perché io sono per l'abolizione di questa autodichia della Camera, del Senato, dei cosiddetti organi di rilevanza costituzionale che si fanno il bilancio, non sono soggetti a controllo sul bilancio della Corte dei Conti e decidono le norme organizzative, le retribuzioni. I vitalizi sono nati così dei parlamentari, si fa tanta fatica a rivedere. Due mattine fa abbiamo avuto ad Attenti a Noi Due alle 8:15 con Alessandro Milan ospite l'avvocato Panic, ex deputato che patrocina dei deputati che chiedono il reintegro del vitalizio malgrado per delibera del Collegio di Presidenza della Camera ne sia stato previsto la decadenza per coloro che beccano condanne superiori ai 2 anni per reati contro la pubblica amministrazione oltre che per mafia e terrorismo. E l'avvocato Panic, che come avvocato patrocinatore ovviamente legittimamente sostiene le tesi a favore dei suoi patrocinanti, ci diceva: il vitalizio è una pensione. A me è toccato, dopo averlo contraddetto per tutta la trasmissione, pubblicare sui social le sentenze della Corte Costituzionale che gli danno torto, perché il vitalizio non è affatto, secondo la Corte Costituzionale, una pensione. Ma tutto questo deriva appunto dalla cosiddetta autodichia. Allora, questa autodichia fa sì che 3.500 euro di diaria si possano mettere in tasca anche con il badge finto, esattamente come i dipendenti pubblici, solo che sono 3.500 che si aggiungono al resto e i dipendenti pubblici, tranne i dirigenti molto elevati, se le scordano cifre così, e per di più prendendoci per i fondelli. Allora la domanda è: cosa fare? Adesso ci sentiamo tra un minuto dopo il traffico, e con noi, oltre a Claudio, c'è un secondo ospite che si è aggiunto, un senatore che ha avanzato una proposta, un disegno di legge per colpire tra gli altri anche proprio gli assenteisti. Sentiremo cosa ne pensa, cosa propone, tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta. Stiamo parlando dei senatori assenteisti e vi abbiamo spiegato come può funzionare questo meccanismo e come purtroppo funziona. Vedremo nel tempo questo accertamento disposto dal Presidente del Senato Pietro Grasso, rivolgendosi ai questori del Senato, a che cosa porterà, a quali numeri e a quali proposte di cambiamento delle norme organizzative interne. Ma appunto, siccome c'è l'autodichia, in realtà poi le sanzioni vere possono essere decise solo dagli stessi senatori. E allora c'è un senatore che ha avanzato una proposta formale da questo punto di vista, il senatore Lorenzo Battista, che è del Gruppo per le Autonomie e che ringrazio di essere qui con noi, di aver accettato l'invito. Buonasera, senatore. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, che prevede lei? Innanzitutto, la cosa descritta da Claudio Marinco avviene o non avviene? Avviene anche di peggio, purtroppo. Ah, anche di peggio. Perché senza fare nomi, io certe volte quando arrivo in aula, che può essere 9:10, 9:15, poi tengo a precisare che prima dei 30 minuti, prima di mezz'ora che iniziano i lavori, l'aula è chiusa. Comunque io certe volte arrivo e trovo qualche collega che ha già lasciato il tesserino inserito. Questo per far capire un po' come funziona. Ma funziona così purtroppo anche in commissione. Io in commissione, per dire, l'altra volta il foglio firme, che questo insomma si potrebbe aprire anche una parentesi, perché tutto quello che avviene in commissione, presenze eccetera, è tutto secretato, non è pubblico. Mi trovo addirittura le firme di colleghi nel foglio firma e poi il collega magari non si fa vivo. Quindi queste pratiche sono, come dire, non dico la norma, però ci sono. Confermo quindi quello che ha detto il giornalista Claudio Marinco del Messaggero. Ma sì, adesso sì. Scusi, io le chiedo una cosa, spero non compromettente, ma se dovesse fare una stima percentuale, quindi non stiamo parlando né dei nomi né dell'appartenenza ai gruppi, è un fenomeno che riguarda il 5%, il 10%, il 15%, quanto? Cosa direbbe a occhio e croce? Ma un po' dipende anche dalle sedute, però sì. Guarda, io per dire di questa cosa sono anche venuto a conoscenza inconsapevolmente, perché non sapevo, io pensavo che si tenesse conto delle votazioni espresse, non sapevo che lasciando il tesserino ai fini amministrativi si era presenti e non votanti, esatto. Sì, sì, ho questa cosa, no, perché c'è un sul sito web, uno può verificare le presenze o no, e quando vedi anche il cedolino della diaria e ti trovi il 100%, che sei certo? E sei sicuro che magari quel giorno, no, non so, sull'unica votazione mi sono distratto, non ho votato il numero legale, però ti vedi la diaria al 100%, allora lì dopo mi sta anche a farmi qualche domanda. No, c'è qualcosa che non torna nei numeri. Esatto. Allora, lei io, però, per questi casi, che la stima, mi pare di capire, preferisce non farla? Perché dice, no, può, no, la stima, guarda, può essere no, una minoranza, no, non è la maggioranza, può essere un 10%, 15%, sì. E poi però sicuramente... ci sono anche così, per dire, delle votazioni, uno prende, esce, che deve andare anche in bagno alla buvetta e lascia il testerino. No, vabbè, Maria, magari si perde 10 votazioni. Quello è diverso, quello è diverso. Quello però è diverso. Se stiamo parlando di un 10-15%, stiamo già parlando di un 10%. Di una quarantina di senatori, non è che stiamo parlando poco, cioè visto che la diaria di 3.500. Potrebbe essere. Va bene, va bene. E allora lei in questo caso cosa propone? Cosa si può fare? No, io avevo proposto, perché la mia iniziativa legislativa risale ad aprile 2014, sì. Sì. Ed erano una proposta in cui si prevedeva la decadenza per i parlamentari che erano assenti reiteratamente per ingiustificato motivo, perché c'era... ci sono, diciamo, una legge molto semplice, l'atto Senato 1427, e c'era un punto che riprendeva esattamente quanto c'è già scritto nel regolamento del Senato, e che c'è scritto palesemente che i senatori hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori di Commissione. E questa cosa è stata, per dire, è stato l'unico emendamento, perché dopo questa legge sono diventate delle proposte emendative durante la revisione costituzionale. E questa cosa qui è stata accettata, mi sembra, è stato l'unico emendamento dell'opposizione, accettato, io all'epoca ero Movimento 5 Stelle, e fa parte del testo che, se verrà confermato nell'ultima lettura, sarà sottoposto al referendum. Mm. Però prevedevo anche che la legge doveva stabilire i casi di decadenza, perché secondo me delle due l'una, anche aver messo questa proposta così, ma non aver così previsto una decadenza, c'è un obbligo adesso che così passa di rango costituzionale, però alla fine chi continuerà a essere assenteista, a non partecipare ai lavori, secondo me non darà mai... come dire, no, ci vuole una legge attuativa, se diventa un principio costituzionale che entri nelle fattispecie e le discipline. E lei sarebbe favorevole alla decadenza anche per casi rilevanti di falsa presenza attestata? Ma questa è una cosa che Movimento 5 Stelle lo presenta spesso, soprattutto quando ci sono i casi di pianisti, perché effettivamente nel privato, almeno io quando lavoravo nel privato, l'ufficio personale diceva che era tassativamente vietato timbrare e beggiare con il cartellino degli altri. No, ma è giusta causa di risoluzione del rapporto, cioè non c'è dubbio nel mondo privato che questo sia giusta causa, no, per la risoluzione. Dopo io così... io spesso parto da una buona fede in tutti. Sì, però la buona fede, no. Guardi, però qua... No, ma io stavo dicendo che, per dire, il fenomeno del pianista, io non lo so se... No, ma oggi noi non stiamo parlando del pianista, che per me è altrettanto grave, ma è diverso. Noi stiamo parlando del fatto di chi fa la falsa presenza per prendersi i soldi. Secondo me, se entra come principio costituzionale, purtroppo ci vuole, perché altrimenti si può fare... Ci vuole una legge che dica: decadono questi senatori. Solo così quei senatori e questo Parlamento potrà dire al dipendente pubblico: ti licenzio, perché altrimenti non ha la credibilità morale per farlo. Questa è la mia opinione, espressa urlando apposta, perché mi sembra molto grave quello di cui abbiamo parlato oggi. Grazie a Claudio Marinco, al Messaggero, che ci ha permesso di parlarne, e grazie anche a lei, perché lei una proposta di legge almeno l'ha depositata. Appuntamento domani mattina dalle 10 alle 12, Conti della Belva con me, Carlo Alberto Canavale Maffè, Mario Seminario, Renato Cifarelli. Parleremo del la crescita, che come vedete è più bassa di quello che si attendeva al governo, purtroppo, e parleremo della riforma delle BCC passata ieri sera. Appuntamento a domani.